stanno già scaldando dalle ultime notizie, sicuramente Tokyo, quella è una candidatura pesante, diciamo così, perché Tokyo aveva già concorso all'edizione dell'ultima, quella che poi si è giudicato Rio de Janeiro. Devo dire, personalmente ho avuto l'incarico di esaminare il dossier di Tokyo, le posso assicurare che forse era il migliore dal punto di vista tecnico ed organizzativo, però poi il voto si dà anche in base ad altri parametri. Poi qualche voce, qualche rumors anche di un interessamento dell'India, non con New Delhi ma con Mumbai. L'India ha già ospitato i giochi del Commonwealth, che poi non sono andati così male come la stampa anglosassone, naturalmente con il fastidio che provano sempre quando parlano di qualche ex colonia o paese che faceva parte del loro impero. Beh, per la verità ho avuto notizie anche dal CEO che le cose sono andate egregiamente. Beh, insomma, sono i cosiddetti paesi emergenti, che non solo nello sport ma anche in economia, ora sono emersi, mentre noi siamo un tantino immersi, no? Dico noi, il mondo occidentale, Europa e Stati Uniti in particolare. Già abbiamo pagato il conto con Rio di questa ormai prepotente avanzata in questi nuovi paesi, speriamo di non fare anche noi i conti con un paese asiatico che si sta affacciando, l'India per la prima volta tra l'altro, perché Tokyo ha già ospitato i giochi.